Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. E allora, in questo lunedì, caro Oscar, ci ritroviamo. Eccoci qua, allora. Parte una nuova settimana. Ho visto che insomma non ti ha colpito molto il problema drammatico di Totti, vedo che fa ironia. No, ma però c'è mezza Italia che piange. Beh, mezza Italia che piange, adesso non lo so. Ehi, ho detto solo grande rispetto, ma ripigliatevi. No, ma guarda che il personaggio è trasversale. Oh, mamma mia, cioè, che cos'è? Il giorno che mi manda la musica del gladiatore. Ma no, ma poi il gladiatore, ragazzi, io ho sentito prima che ti parlo una gladiatore. Il gladiatore finisce male, cioè io non vorrei dire, ma forse bisogna ricordarsi come finiscono i film prima di. Il gladiatore per me non è un grande termine di riferimento. Totti è vivo, non è morto, sì, non certo, è andato certo, nel. No, no, è lunghissima vita. Figuriamoci, quindi non è vivo. Insomma, non tragediamo tutto. Ma anche giusta celebrazione per la carriera, però devi morire, no? Ecco, questo lo metto nei miei programmi, però quelli sull'economia, visto che adesso si va a votare tutto, un paese in cui tutti i giornali sono tutti contenti, abbiamo risolto il problema, non c'è il debito, non ci sono le tasse, si vota, si vota. Oh, Renzi c'è riuscito, vota e Antonio, io devo dargliene atto, c'è riuscito, vota, ha convinto Antonio, tutti, vota, si vota lo stesso giorno della Germania, titoli, siamo come la Germania. Cioè basta votare lo stesso giorno per. Ed è solo lunedì, signore. Vabbè. No, effettivamente questo adesso poi parleremo dei santi, ma di questo oggi vorremmo parlare per cercare di capire come mai c'è questa corsa al voto. Adesso tutti, anche il cerchio si è chiuso con anche il Movimento 5 Stelle che ha detto va bene, la legge elettorale tedesca, 5% di sbarramento, si mani voti. Libere, si chiama mani libere. Si voti, mani si voti. La legge elettorale gli consentirà mani libere. Quindi, siccome sono mani libere, dopodiché mi dispiace per Mattarella, io sono molto solidale con lui, io sono molto scettico sul proporzionale puro, per questo dico mani libere. Poi c'è chi invece mi disegna un'Italia, tipo gli amici del Foglio, che io proprio non li capisco proprio, dove in cui ci sarà una grande scelta di sistema, e in questo sarebbe essere come la Germania, cioè scegliere Renzi, Berlusconi da una parte e dall'altra Grillo, Salvini, e mi dicono che è la Germania. Ma qual è l'Oceania di Orwell 1984, cari amici del Foglio? Non è la Germania. Però sono io che, come è noto, mi manca un venerdì, e quindi sai com'è. No, ma no, che senso, che questo venerdì non lavoriamo? No, mi manca venerdì perché non mi ci ritrovo, ma ovviamente sono minoritario. Però hai ragione tu, il consenso generale oramai è quello. E siamo come la Germania, perché voteremo lo si stesso vota, giorno. Si vota. Allora, Grillo ha anche lanciato un po' una provocazione, ha detto si vota il 10 settembre. La legge elettorale va bene, quella tedesca, sbarramento al 5%, va bene a Berlusconi, pare che vada bene a Renzi, e va bene a questo punto, a parte ovviamente, i piccolini, non va bene non i piccolini. È la legge tedesca, voterete un'unica cosa, non col voto disgiunto, non ci sono i parlamentari mobili, non c'è la fiducia costruttiva, e qui però vi dicono che è come la Germania, e voi dite sì. Dai, il santo ci salverà. Guarda, io ringrazio, perché questo paese non mi lascia mai privo di interessanti sorprese, ed è la benedizione. La vita politica italiana è meglio del Festival di Cannes, molto meglio, incomparabilmente meglio. Santi del 29 maggio, oggi c'è Massimo da Verona, vescovo del IV secolo, c'è uno dei 40 Sant'Alessandro, oggi è Salando, è verissimo, oggi è Sant'Alessandro, martire in Trentino del IV secolo, ma veniva dall'est, veniva da quella che oggi si direbbe Turchia, dalle comunità cristiane di là, e poi c'è una santa che a me è sempre piaciuta da quando ne ho conosciuto l'esistenza, è Santa Bona da Pisa. Santa Bona da Pisa è una di quelle sante laiche tra il 1100 e il 1200, che si avvicina alla fede per via di sventure in famiglia da giovanissima, è tenacissima nella fede, e dopodiché, e ancora oggi i suoi resti sono a San Martino a Pisa, ma diventa, pensa poi, è la protettrice, la santa patrona delle hostess italiane. Perché? Perché si dedica con tutta la passione e le sue energie fisiche che ha a, in epoca in cui viaggiare non era esattamente facile, non si faceva con Alpe Tour, ad andare in tutti i santuari in cui riesce. Per esempio andrà 9 volte a Santiago di Compostela a piedi, all'epoca ci si metteva 7 mesi, 8 mesi, andrà in Terra Santa, andrà insomma dovunque e pensa... la patrona delle, pensa le hostess dell'Italia oggi devono pregare lei, perché oggi quando ho visto che il titolo del Messaggero era più cassa integrazione se le cose, il mercato va male, è la compagnia che va male, non è il mercato che va male, cari commissari, già iniziate a diventare politici pure voi, la compagnia che va male, il mercato va benissimo, il mercato aereo, detto questo oggi è la vostra santa patrona, care hostess dell'Italia, credo che dovrete più aspettarvi cose buone da lei, con tutto il rispetto che da tante cose che vi promettono oggi, perché sotto elezioni diffidate delle promesse, cari dipendenti dell'Alitalia. No, c'è da dire che prima ho fatto sentire il presidente della campagna De Luca che dice: ma Trump ha detto delle cose in campagna elettorale e poi ne sta dicendo altre. Ma che politico strano! Ma guarda che roba! Non esistono i politici che in campagna elettorale dicono delle cose, faremo titolo, delle cose e poi ne faranno titolo altre. Del Messaggero stamattina, cioè, perché proprio cambia tutto, no? Il titolo del Messaggero oggi, tanto per capire come cambia le lezioni, il piano del PD per Roma, IRPEF giù, attack ai privati, al Messaggero. Questo sì. È, ma infatti io quando l'ho letto all'inizio, solo all'inizio, quando l'ho letto, pensa, l'ho detto, beh questa è una gran notizia, perché pensavo che fosse il piano della Raggi, cioè del, no, del Movimento 5 Stelle al governo. Iniziano a le Roma. Promesse fulmicotoniche fantastiliardiche, e invece di ho qui detto, a settembre. Ho detto, ma come voglio. Del PD? Cioè il PD non è, PD. Non governa Roma. Si ah, vota, stanno già, certo già, che si vota. Si vota ma non a Roma. Dunque, ah, quindi, vota, quindi caro mio, ai romani cosa vuoi dire se non ciò che riguarda Roma? Allora, diciamo che se leggete oggi il giornale, li leggerete, a parte 3, 4, 5 pagine sugli sbarramenti, soglie, sistema tedesco, alleanze, ci sono anche i piccoli che sbuffano, diciamo, i piccoli nel ma senso Alfano, però, la sinistra stavolta, italiana. Secondo me il tetto al 5% rischia di restare, perché effettivamente l'interesse è convergente tra Berlusconi, Renzi sì, dei e grandi, Grillo dei e Salvini. Grandi. I piccoli invece, però piccoli, chiaro, i piccoli non hanno i voti per mettere, quindi... E beh, ovviamente i piccoli si lamentano perché dicono 5%, c'è già un calcolo di chi starebbe fuori, già i nomi di chi, insomma, perché non tutto ce la farebbe, sommato, diciamo adesso, abbandonando la mia sardonica e abrasiva ironia, che abbandonerò però solo il giorno dopo morto e la manterrò visto che andrò all'inferno se esiste qualche cosa. Ma detto questo, potrebbe essere ragionevolmente un interesse ad abbassare quel 5% solo se il PD ragionasse di dover avere più liste alla propria sinistra con cui eventualmente, con i cui eletti eventualmente governare, però non mi pare che questo per Renzi sia una gran priorità, da quello che ho capito, ecco. Mentre il Cavaliere vuole assolutamente mandare un messaggio a tutti gli Alfano e gli Stefano Parisi: o entrate in lista con me oppure andate dall'altra parte, va, che oppure, mi scappa da ridere, ecco. Sì, oppure non raggiungerete il 5% e rimarrete fuori. Comunque con noi c'è Marianna Aprile, firma del settimanale Oggi, giornalista, collega, buongiorno Marianna. Buongiorno. Grazie di essere qui. Buongiorno a voi. Con noi c'è anche Alessandra Ghisleri, direttore dell'Istituto di Ricerca Euromedia Research, buongiorno e ben ritrovata Ghisleri. Buongiorno, grazie. Poi ci sono anche altri aspetti, Ghisleri, per esempio il partito animalista di cui noi abbiamo parlato, oggi c'è Michela Vittoria Brambilla che fa una lunga intervista. Sta sorridendo. Si è sentito che la dottoressa Ghisleri ha fatto un sorrisetto, la radio è impietosa. No, c'è non so, no, no, non vorremmo partire da qui, però una cosa ce la deve dire, ce la vuole dire più avanti, ce la togliamo subito come il dente questa cosa. Togliamocela subito. Quanto vale il partito animalista? Se si presentasse da solo con una soglia del 5% avrebbe delle ampie difficoltà a riuscire a passare, e sul 3% sarebbe una scommessa di azzardo. C'è da dire che comunque è un interesse importante, perché gli animali distribuiti nelle famiglie degli italiani sono tanti, praticamente quasi poco meno della metà degli italiani ha uno, due o più animali domestici in casa, e per persone che non vedono altri problemi, che non hanno un'adesione politica forte, potrebbero trovare in questa tipologia di partito un voto, uno sfogo. È vero che temi così forti, unici, e quindi a sentiero, a unico fatto, a unico sentiero, poco hanno mai riscosso. Pensiamo, cioè, ai Verdi, no? Tutti, esatto, noi siamo ecologisti, mai hanno superato la soglia del 3. È evidente che ci vuole anche un contesto politico. Sì, sì, sì. Comunque, insomma, il 5% difficilmente lo raggiungerebbero, quindi il 3 forse sì. Scommessa la, il 3. Tra il 3 e il 5%. Tra il 3 e il 5%. Non so, adesso vediamo anche un po' come chi scomparirà, eccetera. Marianna Aprile, Marianna, hai capito perché tutti vogliono andare a votare adesso? Così improvvisamente, peraltro, nel giro di 3 giorni c'è stato un profluvio di dichiarazioni al riguardo. Ma credo per 2 motivi fondamentalmente, a parte quello solito di Renzi, che è la fretta, ma quella è ontologica, quindi non la annoveriamo più neanche tra i motivi per cui decide una cosa piuttosto che un'altra. No, in realtà probabilmente i motivi sono due, uno interno e uno esterno. Quello esterno credo sia legato all'accelerazione che la Merkel ha dato al proprio ruolo in Europa. Il fatto di scontrarsi così frontalmente con Trump all'indomani del G7, preparando il G20, e in un momento in cui l'Europa, insomma, sembra sfilacciata e debole, ci pone nella condizione di dover prendere un treno che non pensavamo di dover prendere. Per prendere questo treno dobbiamo essere un po' più stabili di quanto siamo, avere un governo un po' meno a tempo determinato di quello che abbiamo, e quindi le due cose mi sembra che insieme si tengano. Il secondo motivo è il vendettellum, visto che va di moda battezzare il vendettellum, perché questa legge elettorale di cui si parla in questi giorni sui giornali risolve un sacco di problemi anche, diciamo, emotivi, no? dei leader dei vari partiti, perché Berlusconi finalmente si leva il sasso in una scarpa con Alfano, Renzi se lo leva con Bersani, Speranza e tutti, diciamo, i transfughi del suo partito. E D'Alema, forse anche D'Alema. Non ne parliamo, rimane una questione che secondo me ci darà delle gioie nelle prossime settimane, che è come la mettiamo con Verdini. Perché il vendettellum può funzionare per tutti, tranne che per Verdini, che dovrà trovare una collocazione in tutto questo, no? In tutto questo panorama, dovrà essere riesumato da uno o dall'altro e portato al riparo dalla soglia del 5% o del 3%, sì, che sia. Io apprezzo tantissimo, no, perché sto trattenendomi da sorridere, ma oggi evidentemente giornata, perdonatemi cari ospiti, perché la descrizione che fa Marianna Aprile, nella quale io molto mi riconosco, è, come è evidente, quella di un processo elettorale che si mette in atto per come protocollo sanitario per le terapie psicologiche dei leader politici, che è veramente una maniera fantastica di descrivere, sì, sì, come, sì, in Italia si prendono queste decisioni. Esatto. Cioè l'interesse dei cittadini e del programma elettorale su tutto, no? Come si vede, c'è una discussione di fondo su dove andrà il sistema fiscale, su cosa faremo della nostra spesa pubblica. La faccenda è: Alfa, adesso ti inchiodo. Voi di sinistra siete usciti, ma cacchio, adesso il palo per impalarvi, eccetera eccetera. Cioè sono dei problemi fondamentali per la vita di milioni di italiani. Sì, fondamentali, e così. No, mi stupisce anche un po' il Movimento 5 Stelle, che dice, e adesso fa anche questa sorta di provocazione a dire votiamo il 10 settembre. Non so, intanto Ghisleri passerà, perché è tutto un gran dibattito su questa legge elettorale. Poi qualcuno dice che in realtà è tutto un fumo negli occhi, si porrà questa urgenza, poi in realtà si andrà a votare a fine legislatura. Però alla fine la quadra di convergenza. La quadra di convergenza c'è. L'hanno trovata. È stata trovata perché conviene a tutti, nel senso che questo metodo conviene ai più grandi, conviene a quelli che sono borderline sulle diverse soglie, con le diverse liti che avete già appena descritto. Ma conviene perché da una parte il metodo proporzionale dà la possibilità di scegliere verso il voto, diciamo, d'opinione sentito. Il metodo invece, che è unito a questo, nel metodo tedesco sapete c'è il doppio voto, no? A metà vengono scelti con una scheda non nominata, sulla stessa scheda con un voto al candidato e l'altra metà con un voto al partito. E poi c'è la sottrazione se si segue il modello tedesco intero. E quindi l'altra metà dà l'occasione al cittadino di poter scegliere anche lo stesso uomo identificato. Questo cosa succede? Permette a partiti forti come il PD di avere il doppio ruolo e quindi di avere un ruolo di rappresentatività negli uomini sul territorio che sono conosciuti e anche un ruolo d'opinione forte del partito. Per partiti come il Movimento 5 Stelle diventerà molto più forte il voto d'opinione, perché come sappiamo sono pochi i referenti di partiti conosciuti, soprattutto anche stimati, e lo stesso per Forza Italia e per la Lega, che invece hanno dei settori dove sono magari più coperti, hanno reti territoriali molto buone in determinate regioni, magari un po' più carenti in altre, e poi evidentemente lasciano fuori. Cosa succede? Che il 70-80% dei voti di coloro che vanno a votare sarà rappresentato da questi 4 o 5 partiti, come leggevo oggi nell'intervista della Meloni, se riuscirà a passare il 5%, e in questo caso allora ci può essere una rappresentanza. Il dato vero è che se la maggioranza rimane quella, parliamo della Camera, cioè la metà di 615, quindi un 312 o 315 deputati per una maggioranza, così come sono i sondaggi adesso, proiettando insomma sulle possibili 27 circoscrizioni, non c'è nessun partito che raggiunge la maggioranza da solo. Parlo di oggi, perché poi con tutto quello. E quindi è evidente che c'è la necessità, come accade anche in Germania, di fare una coalizione più ampia, e quindi di esprimersi. Alla fine. E però molto probabilmente, avendo anche uno scenario con 4 o 5 partiti al debutto, diventa anche più, come dire, una stabilità maggiore, una posizione anche più forte, no? C'è da dire che intanto Oscar chiedono la tua risata da poter scaricare per metterla su come suoneria del cellulare. Ma no, come suoneria del cellulare no, capito? Ma la mia risata è quella di una apolide di questo paese, ovvio, perché non mi riconosco in questo tipo di scelta. Mi fa morire dalle risate l'idea di dire che siamo come la Germania perché votiamo lo stesso giorno. Un sistema elettorale che non tiene in considerazione su entrambi i piani sia la scelta uninominale sia quella proporzionale, tanto è che in Germania, dove invece funziona così, il numero dei parlamentari eletti è variabile. Allora certo, io voglio capire, siccome credo che per tenere i 5 Stelle a bordo dovranno far premiare la scelta proporzionale su il collegio, quello eletto nel collegio, solo che questo non ve lo stanno dicendo, cari ascoltatori, perché siccome si riservano di fregarvi quando sarà celebrato la convergenza, allora quella è l'ennesima italianata. Però naturalmente vedremo questo e altro, e in questo però voglio anche aggiungere una nota di serietà. Alessandra Ghisdeli ha ragione quando dice che comunque con un Parlamento o un sistema politico, almeno per un po', fino al prossimo cambio di legge, al prossimo problema psicologico dei leader italiani, ma comunque un Parlamento con 4, 5, va, forse 6 partiti al massimo, all'inizio cari ascoltatori, certo, all'inizio, perché poi si dividono dopo, perché siccome non cambieranno i regolamenti parlamentari avremo i soliti 360 transumanti con la proporzionale. Questo, la proporzionale porta ancora di più alla transumanza. Però detto tutto questo, almeno all'inizio sarà un Parlamento apparentemente più stabile, più europeo. Più stabile all'inizio. Allora, noi dobbiamo andare un attimo in pubblicità. Ci sono anche tanti ascoltatori che ci stanno chiamando all'800240024. Vedi, io non volevo parlare più di legge elettorale, Oscar, e poi dopo. E invece. Sì, sono questi obblighi così. Vogliamo parlare di omeopatia? No, parliamo di omeopatia. No, tra un attimo, state con noi. 24 mattino. Attenti a noi due. Allora, caro Oscar, vediamo se Sergio da Lodi ha un'idea di quello che sta succedendo politicamente in Italia. Sergio, buongiorno. Sì, buongiorno. Altro che idea, qua, mamma mia, guarda. No, vabbè, è una roba incredibile. Io a 50 anni, dopo tanti anni in cui sono sempre andato a votare, penso che questa volta non andrò più a votare. L'analisi che ha fatto la dottoressa è tremendamente, è drammaticamente verosimile, purtroppo. Ma siamo arrivati all'assurdo. Ma che cosa le sembra più assurdo? La cosa che mi sembra più assurda è il fatto che si torni a questo proporzionale, a queste mani libere, come dice Giannino. Ma è vero, ma a differenza di Giannino, io penso che la classe politica purtroppo è espressione di quello che siamo. Quindi io sono ancora più, come dire, pessimista, perché Giannino ci dà come dire, il, la speranza che gli italiani siano meglio. No, ho capito cosa dici. Io purtroppo sono veramente demoralizzato. Diciamo tante volte, poi la classe politica rappresenta gli italiani, non è che vengono scelti da Marte. Ma io non sento più parlare di che visione c'è per questo paese, ma di zero. Che futuro vogliamo, di chi... Ma è terribile, boh, non lo so, forse sono io. Scusatemi, Sergio è uno sfogo che secondo me rappresenta quella che è un po' la fotografia. Sentiamo Andrea da Empoli, buongiorno, grazie Sergio. Andrea, Empoli. Sì, buongiorno a tutti, grazie di avermi ricontattato. Nulla, volevo dire una cosa probabilmente anche banale, però ecco, siccome spesso si sente parlare di corruzione qua e là, tutte le volte escono questi scoop sui giornali dove sembra sempre che tutti rimangano scandalizzati, partiti per primi, però quello che diceva Giannino prima, cioè questo questa ricerca di accordi semplicemente sui numeri per arrivare a avere delle percentuali più utili a arrivare a comandare a prescindere e a discapito di quelli che sono i programmi che dovrebbero essere i programmi elettorali, secondo me è l'origine di questi problemi, perché ci fa già capire che i partiti non sono tanto improntati a quello che tutti si pensa, ma è semplicemente all'arrivare a comandare, a dispetto di quelli che sono i reali problemi. Allora io dico una cosa, probabilmente è campata in aria, ma perché se si deve rifare una legge elettorale non si riparte completamente da un altro punto di vista, cioè si fa una legge elettorale privilegiando i programmi delle singole forze politiche, quindi in scheda elettorale non ci mettiamo simboli, mettiamoci degli estratti di programma dove la gente va a votare quelli. Ma poi a quel punto dipende, perché fare così in realtà porta a un sistema maggioritario, cioè sistemi contrapposti, programmi contrapposti, esattamente quello che vogliono evitare. Comunque il nostro ascoltatore ci segnala che l'inno d'Italia nel prossimo mese diventa Rovazzi. Andiamo a comandarlo. Esatto. Ma sei rimasto indietro di due giri, però. Lo so, però c'è un'altra, c'è volare. Marianna Aprile, sei tu che hai lanciato questa cosa del vendettellum, cioè hai aperto gli occhi ai nostri ascoltatori a dire che praticamente che i politici. La legge elettorale è un TSO. Esatto, stanno facendo di tutto pur di conquistare il potere, punto e basta, ma non si parla più di visioni. Per questo c'è anche un altro psicodramma in atto, che è quello del Movimento 5 Stelle, no? Che perde ufficialmente la verginità in questo frangente, perché sedersi a un tavolo con il PD a scrivere una legge elettorale appoggiata anche dalla Forza Italia, dalla Lega, eccetera, significa contraddire tutto quello che finora avevano detto. Tant'è vero che sono costretti a rifugiarsi, diciamo, in quella che è la fake news di oggi, no? Cioè questa cosa del 10 settembre, che è meravigliosa, perché è proprio il mangime dato in pasto al duro e puro grillino. Cioè dice, noi ci sediamo al tavolo, ma solo se si vota il 10 settembre, così questi non prendono la pensione. Esatto. Cosa peraltro falsa, no? Tutti i giornali di oggi smentiscono questo paletto, dicendo giustamente che la pensione la maturano comunque questi qui, però è un dato rivelatore, no? Lo stesso Di Maio che dice no, noi ci sediamo lì, facciamo questa cosa ma solo per impedire l'inciucio, che è, se ci pensate, una contraddizione pazzesca, cioè lo inciuciano col PD per evitare che l'inciucio da PD e Forza Italia, secondo loro. Sì. Cioè è un passaggio, diciamo, di crescita anche per il Movimento 5 Stelle, che sarà interessante seguire, perché una volta, come dire, rotto l'argine del dialogo con i partiti nemici, non si sa dove questo dialogo possa portare in futuro. Tra l'altro c'era Oscar qui, divertitissimo, cara Alessandra Ghisleri, a leggere un'intervista a Mentana. durante la pubblicità. Il Fatto Quotidiano dice che nell'incertezza e nell'immaturità di PD e Movimento 5 Stelle, chi vincerà alla fine? Il titolo è: MM 5 Stelle e PD hanno paura di perdere, la loro immaturità farà vincere B. B, cioè Berlusconi. Beh, ma lui ne esce ingigantito da tutta questa storia. Beh, è lui che ha lanciato il proporzionale alla tedesca, quindi... Ma secondo alcuni è anche il fatto, questa ripresa di potere, quantomeno di negoziazione di Berlusconi, che ha tanato i 5 Stelle dal loro isolamento. Non lo so, motore immobile. Questo per Marianna Aprile, ma Ghisleri può davvero vincere Berlusconi, come dice Mentana? Con, con la legge così com'è adesso, cioè insomma questo nuovo il vendettello, sì, sì, come l'ha chiamata Mariana. No, è difficile perché con i voti che ci sono adesso, diciamo che PD e 5 Stelle hanno delle percentuali maggiori che quindi li porterebbero sul territorio con un vantaggio. La vittoria è un po' quella di poter portare tutti i partiti che riusciranno a passare la soglia su un confronto diretto tra di loro, perché oggettivamente non c'è una strada per un vincente solo. Si chiamerà il voto utile, quindi le proporzioni fatte oggi non saranno quelle del 10 settembre o dell'ottobre, cioè intelligentemente ogni campagna chiamerà il voto utile, quindi da canto suo, non so, Giorgia Meloni ha già dichiarato l'inciucio possibile, eccetera. Però bisogna ricordare una cosa, che i cittadini sono stanchi durante le trasmissioni o anche durante i dibattiti televisivi, eccetera, di sentire ho ragione io, c'ero io, c'eri tu e questo l'hai fatto tu. Desidererebbero più, per assurdo, un incontro di voci, mm-hmm, per un governo più stabile, per riuscire a concentrarsi più che sulle leggi elettorali, sulle nuove manovre, sull'aumento dell'IVA, sulle soluzioni delle banche, e quindi potrebbe essere anche una via d'uscita interessante. Mm. Cioè il programma, insomma, la visione, quella visione. Ma che più che un ascoltato. Programma, l'attuazione. L'attuazione, ovazione per la ovazione per la guisa. È un altro punto, perché il problema, come è stato detto, è che da adesso in poi la moneta di scambio sarà avere il Bengodi, il paese del Bengodi tra di noi. Io ho una domanda tecnica per la dottoressa Ghiseri. Quanto si può immaginare che debba passare perché nelle risposte ai sondaggi una parte apprezzabile di chi risponde, del campione, abbia capito davvero come può funzionare un Parlamento tra 4, 5, al massimo 6 forze politiche, e cioè quando iniziano a esprimere davvero il voto utile, tenuto conto che da una parte c'è un'ipotesi PD Forza Italia, dall'altra potrebbe esserci un'ipotesi M5 Stelle e Lega. Quanto tempo deve passare prima che lo capiscano e si veda nei sondaggi, secondo lei? Beh, tantissimo, nel senso che comunque la gente è distaccata, ricordiamoci poi che c'è un periodo estivo dove ognuno di noi ha dei pensieri che sono un po'. Forse non vogliono neanche che lo capiscano. Posso dire che io ho sempre avuto la subdola ipotesi mentale che vogliono votare a settembre perché d'estate sarà meno facile dover essere costretti a dire la verità agli elettori. Se vediamo l'ultimo nostro tornato elettorale, facciamo riferimento al referendum, non ci si è concentrati sul tema referendario, ma ci si è concentrati su votare contro una situazione, contro il Presidente del Consiglio, il che è completamente differente. Da quelle che sono. Sentiamo Paola da Imperia, ci chiama, buongiorno. Buongiorno, sì, Paola in viaggio perché io a 62 anni, dopo tutte le varie riforme eccetera, ho rincorso la pensione perché lavoro da quando ho 15 anni e ho trovato lavoro in Francia, dove sono pagata giustamente tutto. Io faccio la pendolare fra La Spezia, dove vivo, e la Francia. E vi dirò una cosa, gli italiani che lavorano in Francia sono tantissimi e sono scandalizzati da come la politica in Italia, ogni partito pensa solo a ricevere voti, ma non si vede da anni un partito che faccia le cose. L'ultima legge che ci manca di avere è la votazione per il Fondellum, perché ci sentiamo veramente presi in giro. No, la sua amarezza e la sua ironia di Paola ci riporta un po' appunto alla questione principale, cioè vista da parte di un cittadino che dice a 62 anni mi ritrovo poi a dover perché cercare lavoro in Francia. Perché lei si chiamava da Imperia adesso, ma torniamo perché ha ascoltato. Dalla Spezia. Si fa la Liguria tutta ogni volta. Quindi quanto ci mette per andare a lavorare Paola ogni tre giorno? Ore. Io vado, parto tutti i venerdì mattina alle 5. Arrivo a Monaco perché lavoro a Monte Carlo e ritorno il lunedì mattina, infatti sono in viaggio. Faccio un lavoro che si chiama, da noi lo chiamano badante, qui è più bello, è assistente di vita, ma quello è. E ringrazio il cielo perché io in tre giorni full immersion lavoro come se lavorassi una settimana e alla fine del mese guadagno quello che in Italia non mi sognerei di guadagnare. Ecco. Però il problema è che io vorrei. Io ho lottato negli anni delle lotte studentesche, ho preso le botte e tutto, perché ci credevo. Io nell'Italia, come Stato, non ci credo più. E forse, scusatemi, il partito della Brambilla è quello che ha il programma più serio. Vedi. Ma infatti... Paola, grazie per questo breve spaccato, una testimonianza proprio di vita vissuta, molto concreta. Grazie Paola da Imperia. Mario da Piacenza, buongiorno. Buongiorno, sì. La mia è una considerazione, una domanda. Credo che il vero inciuccio sia quello di andare a votare prima della legge di nuovo bilancio che sì. Ci sarà, perché secondo me sarà... lacrima e sangue, quindi Mario, su questo io ti ringrazio perché alzi il tema, perché poi questa è Radio 24. Però aspetta, il rischio era molto forte fino a 10 giorni fa. Nell'ultima settimana, attraverso le osservazioni formali fatte all'Italia con la richiesta per il 2018, si è capito che la Commissione di Bruxelles, attenzione, ci ha abbonato la clausola fiscale, quindi non c'è più quello che questo restava della clausola fiscale, che erano 19 miliardi e che al netto della manovrina diventavano 15 miliardi, non c'è più. Quindi mica tanto lacrime e sangue, certo, 10 miliardi sì, ma in un paese in cui la spesa continua ad andare avanti, quindi non è più diventato neanche tanto questo. Per mesi lo è stato. Però Mario, concluda l'intervento così. No, dico, credo che il vero inciuccio sia quello, e indipendentemente da quello che può dire l'Europa, la realtà vera è che secondo me siamo molto fermi. Però seguendo questo discorso, il Movimento 5 Stelle avrebbe tutto un interesse allora a sbugiardare soprattutto il PD e a metterlo di fronte a un salasso, a mettere le tasche nelle mani degli italiani, come si suol dire. E questo secondo me ha fatto cambiare anche un po' la valutazione della convergenza da parte del 5 Stelle. Quando si è iniziato a capire che non era la grande stangata. Comunque noi ringraziamo Alessandra Ghisleri, Istituto di Ricerca Euromedia Research, e Marianna Aprile, l'autrice del Vendettellum. Il Vendettellum, Marianna Aprile ha oggi coniato il Vendettellum, chissà se qualcuno... Poi Marianna poi arrota molto, fa apposta per sembrare molto più radica chic, in realtà non ce l'ha la R blesa con cui parla ed è fantastico. Va bene, il Vendettellum, ma chiamiamolo così, tanto ormai hanno usato tutti i nomi. Dai, ci troviamo domani, ringraziamo tutti, a domani.